Ed eccoci di nuovo nelle vostre orecchie, nelle vostre cuffiette, nei vostri fili, nelle vostre case. Oggi per tutti gli ultras del fantascientifico saranno trasmesse le frequenze di un'altra Radio Roma su un altro pianeta. Esattamente il pianeta di Radio Panza. Il cosmo enorme, la musica infinita e gli incontri ravvicinati sempre più frequenti. Abbiamo lasciato il nostro messaggio musicale ai selettori di Radio Pazza, Mr. Buck e Miss Prisma. A loro oggi il compito di seminare insieme della musica no copyright, ovunque. Diffondere il nostro speciale podcast suddiviso in quattro lati. Lato A, DJ Cocotte. Lato B, DJ Gasperino. Lato C, DJ Kempo. Lato D, DJ Brontolo. Avrete un kit di montaggio per montare la vostra piccola cassettina che porterete ovunque, dovunque e per dunque. E adesso si parte. Allacciate le cuffiette alle orecchie, inserite il dito nel tasto play, manipolate il volume. E per questo primo lato, attenti ai subwoofer. Nartra Radio Roma ringrazia Radio Pazza. Radio Pazza. Nartra Radio Pazza. Nartra Radio Contra Roma. Radio Contra Roma. Radio per voi Pazza. Dalle frequenze di Radio Pazza, special guest Nartra Radio Roma. Contatto avvenuto, atterraggio avvenuto. Siamo invasi. Come on down, motherfucker. We gonna take you. That's right, motherfucker. And you can't go back up either. Come on down and bring us the money, honey. How much money you got, honey? The good I would do, I do not. And the evil I would not, I do. The good I would do, I do not.

Protesi a fissare sotto il riflesso delle costellazioni, il vuoto intorno e le altre tensioni. E russai che stam sembra fermi in tasto posto. Sa cangia moon appena tutto sposta, sotto l'effetto di gradi di morfina. E nel mio corpo mo tutto come prima. Questo è lo sound quando mess quando lo tiembe sempre sullo stress. La vita torna che c'è nato bluff, una da traccia candanata messa. Questo è lo sound quando mess sempre sullo stress, la vita torna cacciamato bluff, una da traccia candanata messa. Lasciarsi andare, a respirare a scatti, far meticare. Sospesi in giù, tra il dire e il fare. Intravedere da lontano, nulla da eccepire. Qualunque cosa si potrebbe deviare. Qualunque cosa è da andare a morire. Laggiù è sempre la deriva, sempre più lontano. Comunque vada, la superficie quando brucia lentamente. È così, ma ma non succede niente. L'ora che sta in chiusa, l'ora che non cessa. Quando lo tempo è sempre sullo stress. Questo è lo sound quando mess. Quando lo tempo è sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff. Una da traccia canta nata messa. Questo è lo sound quando mess. Quando lo tempo è sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff. Una da traccia canta nata messa. Sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff. Una da traccia candanata messa. Questo è lo sound quando mess. Quando lo tiembe sempre sullo stress. La vita torna caccia nato bluff. Una da traccia candanata messa. In mezzo a queste donne, lo scorso dicembre, c'era una giovane di 20 anni. Si chiama Gus Davy. Gus Davy significa dea del gaga. Forgene ti fa soffocare in mezzo alle tue secrezioni. Il cianuro ordina al cervello: basta, sei stanco, non respirare più. Riesce a contattare i tecnici americani della Union Carbide. Spiegano la situazione, ma

Avvio monitoraggio. L'astronave Nartra Radio Roma decolla dal pianeta Radio Pazza. Destinazione casa dolce. Solo su Nartra Radio Pazza. Just as we confuse money with our ideas of ourselves, our images of ourselves with ourselves, and our names with money.